24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:32 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, una nuova settimana di 24 mattino che riparte. E voglio subito lanciare il sondaggio di oggi, di cui parleremo più approfonditamente tra le 8:30 e le 9. Potete già andare anche sul sito radio24.it per votarlo nella sezione bianco o nero. Parliamo oggi del lodo Alfano. Il lodo Alfano, come forse sapete, è quella legge che prevede la sospensione del processo penale per le più alte cariche dello Stato, le quattro alte cariche dello Stato. Si pronuncerà la Corte Costituzionale a breve nell'udienza del 6 ottobre e quindi entro ottobre. Vi vogliamo chiedere se secondo voi il lodo Alfano è una legge giusta. È giusto sospendere i processi per le quattro più alte cariche dello Stato? Sì o no? Potete votare sul sito e intanto noi andiamo alla lettura dei giornali. In primo piano. Simone commuove l'Italia. È questa l'apertura del Corriere della Sera con la quale voglio iniziare la lettura dei giornali. Chi è Simone? Simone forse l'avete visto, è questo bambino di 2 anni, Simone Valente, con il basco dei Parà. Attendeva ovviamente invano il padre che è tornato come gli altri 5 commilitoni ieri in una bara. E sono le salme a Roma, oggi è il giorno del lutto, il giorno del dolore, il giorno dei funerali di Stato alle 11, tra l'altro funerali che Radio 24 seguirà in diretta, ed è questa la notizia con cui aprono prevalentemente i giornali, vale a dire l'Italia piange i Parà uccisi, per esempio Repubblica, oppure l'addio dell'Italia ai Parà. Sulla Stampa c'è questo, c'è politica e c'è cronaca sui giornali di oggi, ma sicuramente diamo la precedenza appunto al giorno del dolore. Sono tanti i commenti per esempio a corollario delle tante fotografie che spesso più di tante parole raccontano la giornata di ieri. La fotografia di Simone, per esempio, di Simone Valente di 2 anni, la vedete in prima pagina praticamente su tutti i giornali. Ed è proprio il commento di Adriano Sofri in prima pagina di Repubblica, il bambino e la guerra, è dedicato a un commento di tutte queste fotografie. Le fotografie, scrive Sofri, sono di quelle di cui si dice che resteranno, che diventeranno simboliche. È bello che a segnare una data di cordoglio siano le immagini eccitate di un bambino, per il quale forse la novità della giornata è stata anche allegra. Certo, resteranno per la sua memoria quando anno dopo anno vorrà fare la conoscenza di suo padre. Gli racconteranno la nonna, la mamma, come mai erano lì, come mai avevano deciso di portarlo. E ancora più avanti scrive Sofri, e l'Afghanistan? Penso che non siano stati pochi gli italiani che nonni e genitori e fratelli adottivi per un giorno del piccolo Simone hanno immaginato il giorno parallelo e tutti gli altri giorni dei bambini afghani. La cronaca di ieri ne dava 6 o 7 uccisi in attentati. Abbiamo letto che il padre di Martin, che era un tenente, si chiamava Antonio Fortunato, alla partenza aveva riempito lo zaino di 5 chili di caramelle. Gli aveva detto: le porto ai bambini come te. Chi va dove si fa la guerra o quella dissipazione mostruosa di ferocia che oggi usurpa lo stesso nome di guerra, sa bene che non si tratta di caramelle e giocattoli, ma sa anche come diventano importanti per lui stesso più ancora che per i bambini che gli si stringono attorno tendendo le mani, le caramelle distribuite, i quaderni, le bambole, i sorrisi ricevuti. Simone ritroverà le frasi di suo padre che il lutto di oggi ha fatto conoscere a tutti: difendere gli altri, andare a fare del bene. E non è che suo padre fosse uno cerimonioso o sdolcinato, suo padre aveva le idee chiare sulla propria missione e aveva scritto anche quello: auguro a tutti una fottuta vita di merda come la mia. Questo è Adriano Sofri su Repubblica, ma ovviamente ci sono tanti articoli, tanti commenti, anche tanti articoli sull'inchiesta, l'inchiesta che è in corso per capire che cosa sia davvero successo quel giorno a Kabul. Per esempio il Corriere ci informa con Lorenzo Cremonesi che c'è un video dell'agguato ed è stato girato da un ferito. Il caporale Buono ha filmato con il telefonino la sparatoria dopo l'autobomba. Racconta Cremonesi che appunto Buono è uno dei feriti, ovviamente scioccato, ma si vede nel filmato sostanzialmente che viene trascinato sotto la carcassa danneggiata del lince. E si cerca, ci si chiede perché, insomma, l'attentato era già avvenuto. In genere in queste circostanze si cerca di fare aria ai sopravvissuti, li si libera degli elmetti, dagli oppressivi giubbotti antiproiettile. Non ha senso chiuderli in uno spazio ristretto, e invece ha senso se i sopravvissuti sono sotto attacco. Ormai, dicono alcune fonti a Lorenzo Cremonesi, a fonti a Kabul, abbiamo la prova evidente che dopo l'esplosione dell'auto kamikaze alcuni uomini hanno fatto fuoco con armi automatiche. Lo stesso caporale Buono, da sotto il mezzo, ha avuto la prontezza di riflessi di girare un video per alcuni minuti. Sono immagini confuse, sfocate, scrive Lorenzo Cremonesi, che evidentemente deve averle viste, però dice validissime e accompagnate da un audio drammatico. Si sentono gli spari degli aggressori, colpi singoli quasi cadenzati per 2 o 3 minuti, seguiti dalle raffiche degli italiani. E dunque, insomma, ci dovrebbe essere stato un attacco più elaborato nel cuore di Kabul, con un kamikaze e poi attacco di spari. Questo per quel che riguarda l'inchiesta, e dunque questo registrerebbe il fatto che sicuramente dal punto di vista della sicurezza c'è qualcosa da registrare in una delle zone che erano considerate le zone più impenetrabili della capitale Kabul. Tra l'altro, su questo tema, sul tema dell'Afghanistan, è dedicato l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera dal titolo Un impegno sul terrorismo, lo firma Angelo Panebianco, che scrive a un certo punto: il senso della presenza europea in quel teatro che è andato perduto va urgentemente rispiegato alle opinioni pubbliche che una vittoria talebana a Kabul destabilizzerebbe il Pakistan e il fondamentalismo islamico tornerebbe a galvanizzarsi ovunque, anche in Europa. È per evitare che i kamikaze si mettano all'opera qui da noi che siamo in Afghanistan. E ancora, scrive Panebianco, ma come la mettiamo qui da noi in Italia? Si sente ripetere con l'articolo 11 della Costituzione. L'articolo 11 venne scritto perché i costituenti avevano in mente le guerre di aggressione del fascismo. Sono quelle guerre che la Costituzione vieta. Significa far torto all'intelligenza e al patriottismo dei costituenti sostenere che essa ci impedisce di partecipare con gli alleati ad azioni militari tese a contrastare, oggi in Afghanistan, domani forse in Somalia e in altri luoghi, la diffusione del terrorismo. Dunque, quel famoso articolo, insomma, l'articolo del ripudio della guerra, secondo Angelo Panebianco, va riletto così nel contesto storico sostanzialmente in cui fu scritto. Dicevamo, l'apertura è dedicata all'Afghanistan, al giorno del lutto e del dolore, ma c'è anche tanta politica. E quando si parla di politica in questi giorni sui giornali, la parola che spunta di più è complotti, poteri forti, golpe. Queste sono le parole che oggi trovate, soprattutto dopo che il ministro Brunetta un paio di giorni fa ha attaccato con parole molto dure e anche criticate le elite che secondo lui starebbero tramando un vero e proprio golpe per abbattere il governo. Ebbene, la polemica è tutt'altro che placata. Brunetta, non mi pento, è in gioco la democrazia. Renato Brunetta, sul Corriere della Sera, questo è l'articolo, e sotto c'è un'intervista a Vittorio Emanuele Parsi, che è un professore universitario, è un professore che sta nella Fondazione Italia Futura. Perché ha intervistato lui? Beh, perché Gianna Fregonara gli chiede direttamente: professor Parsi, siete voi che lavorate con Montezemolo alla Fondazione Italia Futura? Siete i presunti golpisti evocati dal ministro Brunetta? Noi cerchiamo di alimentare il dibattito pubblico in maniera aperta, risponde Parsi. Mi sembra l'opposto di una strategia segreta e occulta volta a organizzare un golpe. Allora, non si riconosce tra i congiurati. Faccio davvero fatica a capire e a pensare che una persona così attenta come Brunetta possa vedere in questo un pericolo. E avanti, continua Parsi, si figuri se un paese può avere elite che passano il loro tempo nei ristoranti di Via Veneto e alla partita, ma siamo matti, se le elite danno il loro contributo Brunetta non ha nulla da temere. Oltretutto mi sembra che il lavoro che cerchiamo di fare in questo momento è suggerire dibattiti, proposte di cambiamento possibile per problemi complessi. Non è che le elite finiscono per sostituirsi alla politica, chiede Gianna Fregonara. Non credo che il paese sia un passo dal fascismo o il caudillismo, Ma neppure che si stia affermando un disegno tecnocratico tra il piduista e la Spectre. Fossi Brunetta, eviterei di finire su questi scenari. E a dimostrazione del fatto che di complotti sempre si parla, Repubblica, parla Pier Ferdinando Casini, il vero complotto sono i dissensi nella maggioranza. L'intervista a Casini e di Carmelo Lopapa, insomma, inizia così. Avverte anche lei il rischio di un golpe imminente ordito da elite parassitarie, presidente Casini? Avverto soprattutto una cosa, la risposta. Quanto sia migliore l'Italia delle persone semplici rispetto a quella dei governanti. A Ciampino, all'arrivo delle salme dei militari, ho parlato coi familiari, persone con grande dignità. Paragonando quest'Italia a Brunetta, beh, si prova una grande tristezza. E poi più avanti Casini risponde a questa domanda. Sabato, dalle file del PDL, Cicchitto ha rievocato le trame neocentriste lanciando sospetti sul solito Montezemolo. Si sentiva chiamato in causa? È davvero singolare che si ironizzi su un centro che non conta niente, salvo poi demonizzarlo come elemento fondamentale del complotto. Questi amici si devono mettere d'accordo con se stessi. Il vero complotto sono le divisioni della maggioranza. E poi Casini dice: altro che elezioni anticipate, le elezioni anticipate sono assolutamente impossibili. E infine la domanda: scommetterebbe sulla conclusione naturale di questa legislatura? Non scommetto su nulla, dice Casini. Non sono il mago Merlino, dico però che il clima è brutto e non certo per colpa nostra. Chi invece rinfocola la polemica e dice sostanzialmente Brunetta ha ragione è Il Giornale. Il Giornale che apre su tutt'altro una notizia di cronaca che poi vedremo, la vicenda che ha visto protagonista Daniela Santanchè, aggredita la Santanchè, botte a chi è contro il burka. Ma interessante l'editoriale di prima pagina di Marcello Veneziani dal titolo "I nemici di Berlusconi, le oligarchie che hanno potere ma non consenso". Scrive Veneziani: è vero, la lotta politica in Italia non è tra governo e opposizione o addirittura tra destra e sinistra, ma è tra oligarchie e consenso popolare. Non chiamatele elite, per favore, e nemmeno poteri forti. I poteri impotenti, i poteri deboli non sono poteri, e le elite sono il fiore di un paese, sono la classe dirigente, non la classe dominante. Perché quando parlate del ceto politico usate l'espressione negativa di casta, non senza ragione, per alludere ai suoi privilegi e ai suoi favori? E quando parlate di un'altra oligarchia, quella degli affari più contorno di stampa e propaganda, la definite addirittura aristocrazia? È un'altra casta, coi suoi privilegi, i suoi interessi che divergono da quelli del paese, i suoi valori che sono dissonanti dal sentire comune, le sue pretese di egemonia che non passano dal vaglio del popolo sovrano. Così scrive Marcello Veneziani. Su questi temi della politica segnalo solo, prima del traffico, che c'è un'intervista a Daniel Cohn-Bendit, leader dei Verdi in Francia, all'Unità, che dice: la vostra democrazia è quella di Putin e Chavez addirittura. E insomma il clima politico è questo qui, che è rappresentato un po' dai giornali. In primo piano. Ci sono anche tante notizie d'economia interessanti oggi sui giornali. Vorrei partire da Repubblica. Alle aziende prestiti più cari d'Europa. I tassi sono oltre il 4% e racconta questo dramma per le imprese, quello del credit crunch, attraverso la storia della Lavagnini, il caso di questa impresa di Como, una storia di una fabbrica a rischio, racconta sostanzialmente la titolare Paola Lavagnini, 47 anni, imprenditrice comasca, per la quale lavorare è stato il verbo della vita. Ha chiesto un finanziamento di 150.000 euro, mi basterebbero per ripartire, ma la banca, quella con cui operavo da 40 anni, ha detto di no. Me l'ha comunicato il 2 settembre, giorno di rientro in azienda. Il motivo? La Lavagnini è un cattivo pagatore, è iscritto nella centrale rischi della Banca d'Italia. Siamo bollati, ma vorrei vedere chi non lo è di questi tempi. Siamo tutti nella stessa situazione. E se il cliente non mi paga, io non posso pagare il fornitore. Manca la liquidità, crescono gli insoluti. Inutile spiegare tutto questo al direttore della filiale, se non riesco a fare questo devo chiudere, e ai miei operai chi glielo spiega? E questo è uno dei temi, insomma, ricorrenti di questi tempi per le imprese. Riguardo all'economia segnalo che nelle pagine proprio di economia parla il Corriere della Sera Giovanni Consorte, un po' messo all'interno, quasi non si trova l'intervista, in taglio basso, e invece l'intervista è molto interessante. Consorte, sapete, attende il processo, è stato rinviato a giudizio. Consorte dice: Fazio aveva ragione, il libero mercato è passato di moda, visto che fine ABN AMRO, ora mi difenderò davanti agli italiani. E dice Consorte: voglio le TV, le televisioni in aula, e non solo, spiegherò tutto in televisione. Gli italiani devono sapere che non ho mai commesso reati e che hanno voluto sottrarre la BNL al sistema delle cooperative. Ma chi l'ha fatto? Chiede Bocconi. Lo dirò in TV. Basta vedere le interviste di quel periodo rilasciate da Francesco Rutelli. Eravamo sotto elezioni ed era stata avviata la costruzione del PD. E poi ancora le telefonate, lei avrebbe fatto insider trading telefonando a Piero Fassino e Nicola Latorre, due esponenti dei DS. Io non li ho chiamati, dice Consorte, mi chiamavano loro e io dicevo solo quello che i giornali riportavano. Ma spiegherò tutto, lo dice più volte, al che alla fine Sergio Bocconi chiede: ma scusi, quando parlerà in TV? Non posso dirglielo, sto definendo le modalità. Insomma, Consorte promette di rivelare la sua verità presto in TV. L'abbiamo sentito in GR24, ma è molto interessante l'apertura di oggi del Sole 24 Ore. Il meglio sta in Romagna. Sapete che in Francia è stato proposto di cambiare la valutazione del PIL, il prodotto interno lordo, inserendo anche alcuni indici che non sono ora inseriti, che riguardano il benessere, lo stile di vita. Come ricorda il Sole 24 Ore, per esempio, già si fa in Olanda, dove la misura del benessere è già realtà. Si inseriscono anche altri fattori, conta lo sport e la mobilità in Olanda. In Canada invece si monitorano la salute, la vivacità sociale. Ebbene, che ha fatto il Sole? Ha fatto uno studio e dicendo: va bene, prendiamo allora come parametri alcuni parametri che non sono ora inseriti nel PIL, ma sono le condizioni di vita, la salute, l'istruzione, le attività personali, la partecipazione alla vita politica, i rapporti sociali, e facciamo una bella classifica. Vince la Romagna. A Forlì e Cesena il primato del benessere. Forlì Cesena è la prima provincia, poi segue Ravenna in questa classifica che tiene conto appunto di questi criteri un po' innovativi, poi Firenze, poi Siena, poi Verona. Queste le prime cinque posizioni. Invece le ultime posizioni, dove dunque si sta peggio secondo questi parametri: Napoli, Caltanissetta, Siracusa, ma ci sono tutte le province. Volete sapere dove state? Beh, vi comprate il Sole 24 Ore e c'è tutta la classifica provincia per provincia. Sempre sul Sole 24 Ore un'altra notizia interessante, vale a dire la seconda vita di una lira in pensione. Sapete che da quando c'è l'euro ci sono molte persone che si sono dimenticate le lire qua e là. Ebbene, circolerebbero ancora 311 milioni di banconote. Scrivono Rossella Cadeo e Roberto Faben che, insomma, sostanzialmente ci sono, cioè, vero patrimonio di lire che valgono ancora. Ma attenzione, perché uno pensa di spenderle o di portarle in banca, invece ecco il consiglio: se si possiedono vecchie lire non bisogna essere precipitosi, si possono spendere o convertire in euro, ma è vero anche che si possono dare, per esempio, sul mercato dei collezionisti. Un Bernini da 50.000 può essere quotato fino a 2.100 euro, un Volta da 10.000 lire fino a 1.300 euro. Un 5.000 raffigurante Bellini anche 1.200 euro, perché i collezionisti ovviamente li cercano. La cronaca, dicevamo, il giornale addirittura ci apre: botte a chi è contro il burka. Una manifestazione ieri, la conclusione del Ramadan, si è presentata Daniela Santanchè perché voleva, insomma, far rispettare una legge che vieta di velarsi completamente il volto, e quindi è contro il burka. La Santanchè, in due interviste al giornale, all'interno e alla Stampa, dice: mi hanno aggredita, gridavano attenta, domani sei morta. Questo alla Stampa, Maria Corbi. Volevamo che la polizia facesse rispettare la legge, mi hanno minacciato, mi hanno aggredita, dicevano che le italiane sono tutte puttane, che vanno in giro nude, che solo le loro donne sanno cosa sia la dignità. Mi hanno gridato: puttana, domani sei morta, attenta a suo figlio. Attenta a tuo figlio. Insomma, la Santanchè ha subito questa aggressione. Concludo con un'intervista rapidamente, due pagine intere, Stefano Lorenzetto a Maria Stella Gelmini, ministro dell'istruzione, solo qualche stralcio qua e là dell'intervista. Oggi la sinistra tenta un giochetto miserevole, ascrivere i 250.000 precari alla responsabilità di Berlusconi, dice Maria Stella Gelmini. E ancora, la scuola cosa ho trovato? Un ufficio di collocamento. La scuola ha smarrito il senso della sua missione. Funziona male. E ancora più avanti, alla domanda sostanzialmente di Franceschini, ha dichiarato che tagliare le risorse alla scuola è un suicidio collettivo. Certo, siamo capaci tutti di governare come Franceschini, basta mettere le mani nelle tasche degli italiani, ripristinare l'ICI, inventarsi una bella patrimoniale e via. Questa Maria Stella Gelmini su Il Giornale. Ci fermiamo qui con le segnalazioni. Ricordo il sondaggio che potete votare sul sito radio24.it. Che ne pensate del lodo Alfano? È una legge giusta oppure no? Alle 8 e 18 minuti in questo istante ben ritrovati con 24 Mattino ed è il momento dell'economia. Nuove stampanti HP Office Jet Pro fino a 75 euro di rimborso. Scopri come su radio.hp.com. Vi presenta... Soldi e dintorni. Eccoci con una Deborah Rosciani. Buongiorno. Intasatissima. Si è portata la cuffia da casa oggi. No. Andava in giro con studio con un filo. Se mi alzassi ancora un po' il volume, mi faresti anche una grande cortesia. Eccolo là, perfetto. Adesso sono a posto con me stessa e con tutti gli ascoltatori. Benissimo. Eccoci. Allora, parliamo di scudo fiscale che è partito. Tema caldissimo in questi giorni. Peraltro, certo. Come tu sai, non mi sono accorta se lo hai o meno segnalato dalla segna stampa, se qualche giornale lo riportava. Domani il governo dovrebbe esprimersi sulle modifiche contenute nel cosiddetto emendamento del senatore della maggioranza Fleres, che ha sollevato anche una lunga serie di prese di posizioni, perché nel testo si prevede che quanti hanno un procedimento penale in corso, detto in maniera molto semplice, possano accedere allo scudo. In ogni caso, anche un'altra proposta ci sarebbe di modifica, riguarderebbe la riduzione dei tempi per aderire allo scudo da 7 a 3 mesi, cioè fino alla fine di quest'anno, ma in attesa di sapere che destino avranno queste proposte di modifica, oggi rifacciamo a beneficio dei nostri ascoltatori il punto sullo scudo fiscale, perché vogliamo anche lanciare un'iniziativa del Sole 24 Ore, un forum con gli esperti del Sole. Oggi a partire dalle 12.30, lo voglio ricordare bene per tutti gli interessati, collegandosi al sito internet www.elsole24ore.com, sarà possibile avere chiarimenti e risposte alle domande più significative dell'operazione con gli esperti, appunto, del quotidiano. Noi invece questa mattina siamo ritornati a scomodare il professor Tommaso Di Tanno, docente di diritto tributario presso l'Università di Siena e anche uno dei massimi esperti fiscali del nostro paese, e già lo avevamo convocato e chiamato per salvadanaio, per aiutare a capirne qualcosa di più, e oggi rifacciamo dunque questo punto. Professor Di Tanno, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a voi. Allora, io qualche indicazione anche sui termini temporali dello scudo fiscale l'ho già data, perché c'è questa proposta di restrizione dell'arco temporale in cui sarebbe possibile regolarizzare il rimpatrio dei capitali all'estero, ma intanto, in attesa di capire se queste modifiche arriveranno o meno, adesso, al momento, i termini temporali per aderire allo scudo, ricordiamo quali sono, professore? 15 settembre, 15 aprile del 2010. Chi riguarda allora la questione dello scudo fiscale? Ricordiamolo, perché anche l'altra volta avevamo capito a salvadanaio che forse c'era un pochino di confusione. Bisogna chiarire bene che si tratta della possibilità di regolarizzare l'esistenza dei capitali all'estero di persone fisiche. Assolutamente sì, il testo del provvedimento, quello che è stato già varato, si riferisce esclusivamente alle persone fisiche e agli enti, i cosiddetti enti non commerciali, quindi esclude espressamente le società, le società con attività commerciali, il che vuol dire sia le società di persone, società in nome collettivo e in accomandita semplice, sia le società di capitali, cioè a dire società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni. Questo è il testo attuale. Mm-hmm. Domani potrebbe intervenire qualche cambiamento anche in questo. C'è questo emendamento Fleres che sembrerebbe ampliare la platea in questo senso. L'emendamento Fleres si riferisce anche alle società estere controllate da un soggetto italiano, in cui il soggetto italiano potrebbe essere certamente una o più persone fisiche, ma al limite anche delle società di capitali. Questo è un punto ancora incerto, cioè chi sono i controllanti delle società estere? Certo è che vengono ammesse alla sanatoria anche le società estere che siano controllate da un soggetto residente o anche collegate ad un soggetto residente. Che vuol dire controllate? Che vuol dire collegate? Controllate significa che il soggetto residente deve possedere più del 50% dei diritti di voto nella società estera. Società collegata è invece quella in cui il soggetto residente possiede più del 20% dei diritti di voto. Insomma, una questione complicata, ne sapremo di più, lo dicevamo, nelle prossime ore, e probabilmente ci toccherà anche doverla ridisturbare di nuovo in un'altra mattinata, in un'altra circostanza. Detto questo, però, abbiamo abbastanza chiari i termini delle modalità di regolarizzazione. Ci sono due soluzioni, il rimpatrio e appunto la regolarizzazione vera e propria. Quali sono le differenze? La regolarizzazione vera e propria viene riservata ai patrimoni esistenti in paesi della Comunità Europea o in paesi dello spazio economico europeo, detta in soldoni Norvegia e Islanda, quindi i 27 paesi UE più Norvegia e Islanda. Ai patrimoni che si trovano in questi paesi viene riservata la regolarizzazione. Ai patrimoni che si trovano in paesi diversi da questi viene riservato il rimpatrio. La differenza fra i due sta nel fatto che la regolarizzazione è un patto puramente cartolare, cioè si rende la dichiarazione che si possiede un certo patrimonio in questi paesi e lì si lascia, paga, lì all'estero. Esatto, si paga l'imposta sostitutiva e lì si lascia lì dove stanno. Questa è la regolarizzazione. Al contrario, il rimpatrio significa dire: mi rivolgo a un intermediario autorizzato, trasferisco dall'estero all'Italia il patrimonio in questione e pago l'imposta sostitutiva per regolarizzare il tutto. Ovviamente questo è semplicissimo quando si parla di denaro o quando si parla di titoli, è molto più complicato se si tratta di un immobile, di un bene fisico. Se si tratta di un immobile, se si tratta di uno yacht, se si tratta di cose di questo genere. In questa seconda ipotesi, cioè qualora il patrimonio sia costituito da oggetti, quindi non da denaro né da titoli, la questione direi che è molto più complicata in questo senso. Mentre nella prima ipotesi somme o titoli è sufficiente rivolgersi a un intermediario autorizzato e poi di fatto lo fa lui il trasferimento o la regolarizzazione, nell'ipotesi di patrimoni costituiti da beni, quindi torniamo agli immobili, agli yacht, rivolgersi a un intermediario autorizzato diventa più complicato perché l'immobile non è trasferibile, lo yacht teoricamente è trasferibile, tuttavia in entrambi questi casi non c'è l'interesse da parte del contribuente ovviamente a... ci potrebbe essere. Facciamo l'ipotesi di un contribuente che abbia acquistato un immobile a New York e non lo abbia mai dichiarato. Costui ha fatto sicuramente una sciocchezza, perché il trattato contro le doppie imposizioni fra Italia e Stati Uniti fa sì che le imposte su quell'immobile siano pagabili soltanto negli Stati Uniti, e devo ritenere che questo signore magari le imposte negli Stati Uniti le paga per davvero. Quindi in questo caso sì. Che cosa quindi deve fare? Si tratta semplicemente di mettere a posto una situazione che è irregolare, una situazione che non comporta nessun peggioramento per l'avvenire, e si tratta semplicemente di mettere a posto le carte, tutto qua. Certo, viene mantenuto, ricordiamo, professor Di Tanno, io purtroppo non ho molto tempo a disposizione, ma un'ultima cosa magari la ricordiamo, l'anonimato sui contribuenti che vorranno approfittare dello scudo. Ecco, il punto è questo. Quando parliamo di somme e di titoli, l'anonimato viene certamente mantenuto perché, dicevo, l'operazione viene fatta attraverso l'intermediario autorizzato. Quando invece parliamo di patrimoni, e qui torniamo al tema dell'immobile, a me pare che rebus sic stantibus, cioè tenendo conto della legge da un lato e delle posizioni dell'amministrazione finanziaria dall'altro, mi pare che l'anonimato non possa essere mantenuto. Benissimo. Quindi può ottenersi la regolarizzazione, ma non mantenersi l'anonimato. Sono comunque tutti aspetti che sicuramente oggi il forum online del Sole 24 Ore magari tornerà ad affrontare, cercando di individuare anche tutti i chiarimenti appunto necessari da far conoscere sera ai contribuenti interessati a questa grande operazione di rimpatrio, appunto, di capitali detenuti all'estero. Professor Di Tanno, io intanto questa mattina la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro e presumibilmente ci risentiremo presto. Buona giornata. Grazie a tutti voi. Grazie molte. Alessandro. Eccoci con Salva Danaio alle 12. Sì, anche a Salva Danaio approfittiamo del Sole 24 Ore che oggi pubblica per tutti gli studenti e le famiglie di studenti universitari un'interessantissima guida ai master per continuare a studiare, insomma, dove si va e soprattutto quanto costano. Le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano sono queste. Il lungo corteo funebre accompagnerà stamani a Roma dal Celio alla Basilica di San Paolo fuori le mura i 6 parà uccisi nell'attentato a Kabul. Alle 11 i funerali di Stato che Radio 24 seguirà in diretta. Per la politica oggi è probabile il faccia a faccia tra Berlusconi e Fini dopo le tensioni nei giorni scorsi. Da giorni Gianni Letta e Ignazio La Russa sono al lavoro per preparare il terreno dell'incontro. Per la cronaca, la donna morta a Messina potrebbe essere la prima vittima esclusivamente dell'influenza A. La sorella della vittima dice era sana, non aveva altri problemi. E per il calcio risorge la Roma, che nel posticipo ha travolto 3-0 la Fiorentina. Nel pomeriggio vincono a fatica l'Inter, 2-1 a Cagliari, e il Milan 1-0 sul Bologna. La Sampdoria, battendo il Siena, rimane in testa alla classifica a punteggio pieno con la Juventus. E dunque alle 8:34 minuti siamo pronti per il nostro sondaggio di oggi. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Ci chiediamo oggi, ci interroghiamo sul lodo Alfano. Lodo Alfano, come forse saprete, è la legge che sospende temporaneamente i processi per le 4 più alte cariche dello Stato per il periodo in cui rimangono in carica. E c'è una sentenza in arrivo da parte della Corte Costituzionale, il 6 ottobre c'è l'udienza, si pronuncerà sul lodo Alfano, sulla costituzionalità o meno. Vi chiediamo se sia giusto o no secondo voi questo lodo Alfano, se è una legge che vi piace oppure no. Potete votare sul sito di radio24.it. bisogna dire che per il momento il 30% dice di sì, sul 70% più o meno siamo sul no. Visto che si chiama lodo Alfano, c'è un ministro della giustizia, Angelino Alfano, che ha ballato giovedì scorso, ha spiegato la ratio di questa norma. Sentiamo cosa ha detto Alfano. Noi abbiamo voluto affermare un principio, che è il principio per cui chi governa deve avere la possibilità di governare senza dividere il tempo, qualora sia impegnato in un processo in tribunale, tra il governo del paese e il viaggio in tribunale. Mi si può dire, ma così si sottrae al processo? No, perché la prescrizione non c'è. Ma così possono scadere termini? No, perché tutti i termini sono interrotti. Ma così se si candida a vita, se lo tiene a vita questo pseudo, che non è, dal nostro punto di vista, tale privilegio? No, perché lo può utilizzare solo una volta. Chi governa deve governare, non può dividere il suo tempo tra il governo e un procedimento penale. Su posizioni ovviamente ben diverse abbiamo chiamato i due nostri ospiti, Daniele Capezzone, portavoce del Popolo della Libertà, buongiorno. Buongiorno. E saluto Luigi De Magistris, europarlamentare dell'Italia dei Valori, benvenuto. Buongiorno a lei, ascoltatore. De Magistris, che ne pensa? Chi deve governare, è un impegno 24 ore su 24, anche l'avvocato Pecorella lo ha detto, non si può dividere tra impegni istituzionali e un dibattimento in processo, è questa la ratio del procedimento? Ma innanzitutto dobbiamo dire che noi dobbiamo rispettare una Costituzione repubblicana che all'articolo 13 che la legge è uguale per tutti, quindi a mio avviso il lodo Alfano è in violazione alla Carta Costituzionale, questa è la cosa più importante. Il resto non conta, l'argomentazione del Ministro della Giustizia, per due motivi. Innanzitutto perché i cittadini hanno diritto di sapere se chi li governa è un corrotto, è un mafioso, è uno stupratore, qualsiasi reato possa essere, a prescindere adesso da Berlusconi, insomma, faccio un discorso di carattere generale. Poi potrebbe valere per tutti, potrebbe valere anche per un parlamentare, per il governatore della Banca d'Italia, per qualsiasi carica. Quindi comunque l'aspetto principale, a mio avviso, è il rispetto della Costituzione. Se si cambia l'articolo 3 della Costituzione, allora si può discutere, altrimenti è una legge palesemente incostituzionale che a mio avviso non andava promulgata. E questo poi la Consulta vedrà. Capezzone, a questa idea che molti ci scrivono e dicono, ma è un'idea di un qualcuno che sia più uguale degli altri, questa legge che pone per 4 alte cariche dello Stato un qualcosa che altri non hanno, che rispondete? Guardi, io vorrei invitare tutti gli ascoltatori, è presumibile che ci sia una quota forte di elettori filo centrodestra, una quota forte di elettori filo centrosinistra, vorrei invitare tutti a dimenticare per un istante Silvio Berlusconi, nel bene, nel male, dimenticare per un istante l'attuale centrodestra, l'attuale centrosinistra e pensare un momento all'Italia. In Italia, come in qualunque paese democratico, il principio è che le maggioranze parlamentari, i governi e i capi di governo li decidono gli elettori con il voto, non i pubblici ministeri e i tribunali. Purtroppo in Italia si è determinata una situazione per la quale quando qualcuno perde le elezioni, quando qualcuno ha avuto un risultato elettorale che non gli piace, quando qualcuno vede a Palazzo Chigi il suo avversario, spera nei tempi supplementari e in tempi supplementari che si tengano per via giudiziaria. Ecco, questo è quello che noi vogliamo impedire. Noi crediamo che il principio di fondo è quello per cui chi sta al governo lo decide la gente ha diritto a che chi ha scelto stia a Palazzo Chigi per 4 anni, per 5 anni, poi, come accade in altri paesi, penso alla Francia, dopo affronterà le questioni giudiziarie che, come il ministro Alfano, non sono in nulla né cancellate né prescritte, sì. Né prescritte né niente. Mi permetto di dire un appello alla sinistra, io sono un tifoso dei sistemi bipolari, di quelli bipartitici in cui tutti e due i maggiori partiti sono partiti di governo. La sinistra non batterà Berlusconi per via giudiziaria, la sinistra batterà Berlusconi quando troverà un candidato più forte, un programma più credibile, una coalizione più coesa. Ma stia attento, sì. si parla di complotto, il titolo, la parola che più c'è è complotti, golpe, no, golpe, ma complotti. Guardi, non è questione di golpe e di complotti, è una questione molto precisa. Io insisto, questo varrebbe chiunque, se il paese vota Milan a Presidente del Consiglio, ha diritto a che Milan sia per 4 anni, per 5 anni a Palazzo Chigi e possa governare, non che si alza un pubblico ministero, il pubblico ministero Capezzone o il giudice Capezzone e lo azzotta. Tranquillizzo tutti, non succederà. Tranquillizzo tutti. Voglio salutare il direttore del Riformista Antonio Polito. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora abbiamo qui Luigi De Magistri che è chiaramente a dire il lodo Alfano non va bene. Il Daniele Capezzone invece a difenderlo, a difenderne il principio. Antonio Polito, le chiedo come la pensa e poi voglio anche chiedere, insomma, il Riformista è quello che più di tutti e per primo ha puntato al fatto, attenzione, se il lodo verrà bocciato dalla Corte Costituzionale, secondo il retroscena, Berlusconi avrebbe già detto state pronti ai suoi, state pronti a che? Alle elezioni anticipate? Beh, penso di sì, almeno questo è il tam-tam che è uscito da Palazzo Grazioli in questi giorni e certamente in parte è minaccia, in parte è anche il riconoscimento del fatto che questa storia del lodo Alfano è un po' uno snodo importante della legislatura. Mi ha detto un parlamentare importante vicino a Berlusconi, vogliamo capire con lodo Alfano se vogliono farci la guerra solo con armi convenzionali o invece vogliono passare alla guerra termonucleare, ecco, tanto per essere chiari. Ma sul lodo in sé io francamente non ho gli strumenti giuridici per valutare quello che farà la Corte e come lo farà. Una qualche forma di immunità per il potere elettivo o per le cariche istituzionali esiste ed è riconosciuta un po' in tutto il mondo, voglio dire, per esempio negli Stati Uniti il presidente può essere sottoposto a un processo di impeachment che però lo sceglie, lo decide il Parlamento, lo decide il Congresso se farlo oppure no. In Italia esisteva un sistema di guarentigie nei confronti del potere elettivo, cioè dei parlamentari, che poi è stato tolto con la vicenda di Tangentopoli. Questo per un'ovvia ragione, perché è chiaro che non può essere un qualsiasi giudice di qualsiasi procura ogni volta ad aprire una crisi politica, perché ovviamente una vicenda giudiziaria si trasforma in una crisi politica e soprattutto, siccome la giustizia in Italia ci mette 5, 6, 7 anni, adesso hanno fatto il rinvio a giudizio del caso unico BNL, che è una storia di 4 anni fa, lei capisce che gli effetti sullo svolgimento della vita democratica, della vita di governo sono molto complicati. Quindi il principio secondo lei non è inaccettabile. Vorrei tornare da De Magistris, l'accusa che ci scrivono alcuni è questa, è molto chiara, in un paese, se fosse un paese normale magari no, ma un paese in cui la magistratura è molto politicizzata e ovviamente chi critica immagino dica sia politicizzata contro Berlusconi, allora in questo caso la legge è giusta. Che replica lei? Ma io penso che in Italia la magistratura, come prevede la Costituzione, è autonoma e indipendente. Poi sono d'accordo sul fatto che un Presidente del Consiglio non debba cadere per via giudiziaria e va sconfitto sul piano politico, su questo io sono perfettamente d'accordo. Io credo che in Italia c'è un'anomalia evidente che da ormai da moltissimi anni si trascina il fatto che Berlusconi viene in qualche modo processato per i fatti più disparati e per i fatti più gravi. C'è una parte del Paese che evidentemente ritiene ingiustamente tanto da continuarlo a votare, altri invece ritengono che come ogni cittadino debba essere giudicato. Poi il fatto che questa legge sia fatta ad personam per Berlusconi, in qualche modo l'ha detto anche Capezzone, tant'è vero che non si parla proprio di Presidente della Camera, di Presidente del Senato e di Capo dello Stato, lui ha citato espressamente, più o meno testualmente, chi governa, cioè chi è stato eletto dal popolo ha diritto di governare. Questa è una tesi che io non condivido, ripeto, perché cozza con la Costituzione. Si può discutere di altre forme come in altri paesi, tra l'altro la stessa Costituzione Repubblicana Italiana prevede ad esempio per il Capo dello Stato anche la possibilità di essere sottoposto comunque con delle garanzie, quindi ci sono tanti modi per garantire il principio di uguaglianza e, come dire, la possibilità a chi viene eletto di governare. Capezzone, la questione dimissioni, perché visto che anche l'avvocato Pecorella, qui c'è anche Antonio Polito, l'avvocato Pecorella di Berlusconi ha detto appunto o si svolge le funzioni del Presidente del Consiglio o si svolge o si sta dietro al Tribunale. Seguendo questa logica, che vuol dire? Se dovesse bocciare la consulta il lodo Alfano, Berlusconi si dimette? No, ma questa è un'ipotesi che non esiste. Io, guardi, vorrei stare sul punto di fondo, sul punto generale, vorrei dire sul punto di democrazia che giustamente Polito sottolineava e che sottolineavo anch'io. Ma scusate, facciamo un passetto indietro. Berlusconi può piacere, può non piacere, lo si può votare, lo si può non votare. Ma vi pare normale che da quando è entrato in politica ha subito, me li sono annotati, 90 processi, 2500 udienze, 500 magistrati impegnati, 470 perquisizioni, neanche Al Capone. Ora, se dopo questo tipo di trattamento Berlusconi è ai vertici di consenso, 68% di consenso nel paese, se continua a vincere le elezioni, perché accade questo? De Magistris dirà perché gli italiani sono tutti ingannati. Io penso perché gli italiani non si fidano di chi aggredisce Berlusconi in questo modo, non ritengono credibile chi lo vuole azzoppare soltanto per via giudiziaria, e allora ecco il senso del provvedimento. Io condivido quello che diceva un ascoltatore via SMS, lei lo riferiva. In un altro paese non sarebbe stato necessario, in questo paese con la magistratura, spesso con settori della magistratura politicizzati, è necessario. Lo dico senza polemica, che avvale proprio per De Magistris, che legittimamente è sceso in politica, si è candidato alle elezioni, ha detto mi dimetto, poi non si è dimesso, si è messo in aspettativa, magari tra qualche anno torna a fare il pubblico ministero. Mi ha bruciato il finale, no, mi ha bruciato il finale. Lo dico con enorme rispetto. Sì, ma gliel'avrei però, chiesto tra no, poco. Dico, però il punto è molto semplice, è la terzietà del magistrato. E se un giorno De Magistris mi indaga, magari per ottime ragioni, ma io posso essere indotto a pensare, caspita, quello era un politico come me. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. 8:48 minuti, potete votare sul sito radio24.it. Ci chiediamo sul lodo Alfano, è giusto o no questa legge che sospende temporaneamente le quattro più alte cariche dello Stato? Sono solo se sono velocissimi. Due ascoltatori, Paolo da Siena, buongiorno. Approvo in toto quello che ha detto Capezzone, che è una persona estremamente in gamba e sintetica. Quindi lei è per il lodo Alfano, dunque. Approvo, e approvo soprattutto quello che, grazie a Dio, Feltri tutti i giorni può ancora scrivere sulla stampa, cioè sul giornale, in quanto lei sa benissimo che la maggior parte dei giornali sono in mano a quelli che sono stati battuti da Berlusconi. Ecco perché ce l'hanno con lui, perché la sinistra è stata battuta. Allora rimanga con noi, Paolo, non metta giù. Stefano dalla provincia di Roma, che dice lei? Allora io dico che, fermo restando che questi signori, tipo il signore che sta parlando adesso, come diciamo la maggioranza degli italiani, meritano di avere un presidente come Berlusconi, io sono contrario al lodo Alfano per un semplice motivo. Ormai in Italia c'è rimasta una sola cosa che ancora ha un certo valore, che è la Costituzione. Se la vogliamo buttare giù a picconate, prendiamola a picconate e poi... Ha sentito Paolo, che ne pensate? Proviamo questa, Stefano da Roma e Paolo da Siena. Stefano, provi a convincere Paolo, perché dice si merita Berlusconi? Perché se l'ha votato se lo merita, perché forse sarà convinto, una persona prima di votare si dovrebbe informare su chi va a votare. Paolo, lei si è informato? Allora, Paolo da sé. Egregio signore, deve sapere che il sottoscritto, quando era studente, per rendersi conto che il comunismo era una cosa abnorme, molto peggiore del nazismo, è andato a Berlino, ha studiato Paolo Faldoni a Berlino, il tedesco, per vedere quello che come viveva il popolo sotto la democrazia e sotto la finta democrazia. A questo signore, in quel periodo, gli avrei dato il denaro per andare nella Germania Est, ma per rimanere. Paolo, però che c'entra questo? Il popolo là veniva. Lei dice perché ci sono i comunisti anche oggi da combattere. Dagli al comunista. I comunisti forse erano più seri. Oggi ci sono le io non sono un comunista, i comunisti in Italia non ci sono mai stati, guardi, forse ci sono stati socialisti, vogliono rimanere alla griglia. Va bene Stefano, lei ha detto i comunisti non ci sono, va bene, ma vi ringrazio, insomma ci piacciono gli animi così un po' bollenti. Antonio Polito e poi Luigi De Magistris, che deve la questione sulla magistratura. Polito, le chiedo, Berlusconi perseguitato dai giudici o Berlusconi che fugge dai processi, lei come la vede storicamente? Ma diciamo io quello che è più rilevante, più visibile è la fuga dei processi, nel senso che certamente Berlusconi ha un numero impressionante di processi a suo carico, li ha avuti e li ha. Molto dipende però dal fatto che Berlusconi ha avuto una vita prima della vita politica, perché tutti questi processi riguardano la sua attività imprenditoriale, il modo in cui l'ha condotta, i legami che aveva e così via. Purtroppo questo è il problema un po' della figura Berlusconi, che si porta dentro con sé in politica, nella vita democratica, accendendo gli animi, come abbiamo sentito ancora un attimo fa, si porta dentro non soltanto la passione politica, la lotta politica, come avviene giustamente anche altrove in altri paesi, ma si porta dentro anche questa storia personale di imprenditore, di uomo d'affari, che spesso le procure hanno messo sotto processo, certe volte in maniera chiaramente un po' superficiale, certe volte in maniera più approfondita e consistente. De Magistris deve una risposta a Capezzone e agli italiani. Pierluigi Battista quest'estate è stato molto puntuto ogni tanto a ribadire perché lei, De Magistris, si è messo in aspettativa e non si è dimesso dalla magistratura. Lei ha detto i tempi delle mie dimissioni non li deve dettare nessuno, ci penserò. Ma perché? Capezzone dice poi un domani torna a fare il magistrato, però ha fatto il politico di un'area politica. Come la combiniamo questa cosa? Perché non si è dimesso? Tranquillizzo subito Capezzone che io non tornerò in magistratura e tra qualche giorno il Paese capirà in modo chiaro le ragioni delle mie dimissioni, chi sono i responsabili politici e istituzionali dalla mia andata via dalla magistratura. In che senso? Quindi su questo sarò molto chiaro. Poi voglio dire, a differenza di altri... In che senso però? Sia chiaro adesso, ci dia che vuol dire tra qualche giorno? No, io non lo dico a lei, quando io lo renderò pubblico e ho deciso io come renderlo pubblico. Quando sarà il momento, tra qualche giorno, tra qualche settimana, lo saprete. Poi per il resto veramente sono incuriosito del fatto che questa vicenda, ma io prendo atto, viene cacciata solo nei miei confronti quando ci sono tanti magistrati, sia nel PDL, sia nel PD, cominciando dall'ex Presidente della Repubblica Scalfaro, che per tanti anni è stato magistrato, ma tantissimi. Nessuno dice nulla, ma io comunque li tranquillizzo Capezzone, che farebbe invece bene a preoccuparsi dei guai giudiziari molto seri del Presidente del Consiglio. Così, insomma, dobbiamo attendere, De Magistris. Qualche giorno. Ma che farà? Una conferenza? Non lo so. No, glielo posso anticipare. Non glielo può anticipare. Capezzone, attenderà anche lei come questi, tu. No, ma se questi sono i maestri di trasparenza, che appena uno gli fa una domanda... Vabbè, ha detto attendiamo tra qualche giorno. Buttano la palla in calcio d'angolo, chiamano la maestra, citano Scalfaro... Fate i maestri di morale da mattina a sera, ci spieghi perché ha fatto la campagna elettorale dicendomi dimetto e invece si è messo in aspettativa. No, e guardi, ora risponde dimetto, solo quando verità, la stampa lei, o gli esponenti politici le chiedono conto di questo. Ecco perché non siete credibili rispetto a Berlusconi. Vede, Berlusconi può piacere, può non piacere, ma ogni aspetto della sua vita è stato vivisezionato. voi appena vi si tocca, come Di Pietro, appena si toccano le cose immobiliari, appena si tocca la gestione del partito, subito come i gatti fate il pelo lungo e vi spaventate. Così non funziona. Vabbè, ma adesso ha detto tra qualche giorno, io voglio insomma, la marcheremo stretto, visto che ha usato il corner come espressione calcistica, uso io questa, De Magistris, la marcheremo stretto a capire. Ci diamo un po' i tempi, qualche giorno, una settimana, 10 giorni. Cioè, che farà lei? Che dirà pubblicamente senza dirlo qui? Che cosa ci svelerà? Allora, lei siccome un giornalista serio, perché la seguo, vedrà che io addirittura ho detto in campagna elettorale che io, anche qualora non fosse stato eletto, mi sarei dimesso. Non ho mai detto che 3 giorni dopo la mia elezione. Il gesto di dimettersi non è un gesto, io non è che mi dimetto da fare, come dire, il bagnino o qualcosa di questo tipo. Io ho fatto per 15 anni il lavoro che ho sognato di fare, quindi è giusto che io maturi dentro di me le modalità più idonee, siccome è un atto significativo, per rappresentare al Paese in modo sereno ma in modo chiaro quello che è accaduto. Poi se altri vogliono usare metafore le usino, io sto a posto con la mia coscienza, insomma prendo le conclusioni, lo saprei, lei lo saprà, lei è una persona attenta, gli italiani valuteranno chi fa propaganda e chi cerca di parlare d'altro invece di guardare i guai in casa propria, come il caso di Berlusconi, che addirittura, e questo è significativo e vorrei sapere che persone che ne pensa, senza che nessuno faccia il nome di Berlusconi sulle vicende delle stragi di mafia, dice alla stampa che ci sono procure della Repubblica che stanno cospirando e congiurando contro di lui. Ah, mi ha aperto una voragine. Ho 10 secondi, Capezzone, mi ha aperto una voragine su questa cosa delle stragi di mafia. Però 10 secondi. No, guardi, dopo essersi arrampicato sugli specchi, De Magistris fa l'ultimo autogol. Se adesso vogliamo accusare Berlusconi delle stragi di mafia del 93 e di avere ucciso lui, Falcone e Borsellino, voglio dire, chiudiamola qui e tanti saluti. E infatti anche perché il tempo è finito, devo chiuderla qui per forza, guardate, il tempo è finito, ma vi ringrazio, insomma, Daniele Capezzone, Luigi De Magistris, Antonio Polito, direttore del Riformista. Potete votare sul sito radio24.it il sondaggio sul Lodo Alfano, alle 13 vi daremo i risultati nel GR, ma anche domani, poi rimarranno lì sul sito per sempre. Saluti e baci a tutti, Alessandro Marco Tulli in redazione con Laura Marchesi, Peter Bescapè in regia. A domani alle 7:30.